ve l'abbiamo fatto risentire Marotta, nostro ospite dell'altro giorno. Non casuale la scelta della base della colonna sonora Read My Mind dei Killers, il gruppo preferito dagli Orente, che come annunciato poi nei giorni successivi è arrivato ufficialmente alla Juventus. Io saluto e ringrazio il direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore. Buongiorno a voi e buongiorno agli amici ascoltatori da calciomercato.com. Senti, da calciomercato.com, però io vorrei fare un po' di ricordare un po' di storia del giornalismo. Da direttore di Tutto Sport, tu hai salvato questo giornale, perché è storia del giornalismo, inventandoti la formula del mercato a 365 giorni l'anno. Poi sulla scia l'hanno fatto un po' tutti hanno fatto un po' il verso e continuano a fare il verso a questa tendenza, che però adesso secondo me sta mostrando la corda. Ma guarda, è una questione di credibilità. Il mercato è cambiato radicalmente rispetto agli anni di Tutto Sport, a cavallo tra la fine del secolo e l'inizio di quello nuovo, perché c'è stata l'irruzione di Internet. Internet ha completamente rivoluzionato il modo di fare il mercato, di seguire il mercato, di commentare il mercato. Adesso vince chi è credibile, chi è autorevole, chi non spara panzane, chi non spara facezie, perché il mercato può essere imprevisto ed imprevedibile, ma ha una sua logica. E quindi è evidente, te lo dice uno che dirigendo calciomercato.com in questi giorni ha registrato, grazie al lavoro della redazione, soprattutto all'uso in giro consenso dei lettori, lo sfondamento del muro di 500.000 utenti unici al giorno. Sì, sì. E questo vuol dire che devi essere credibile, essere autorevole, devi soprattutto controllare le notizie, anche perché rispetto al tempo in cui, e mi riferisco al periodo precedente, la sentenza Bosman, il mercato era molto più semplice, c'era la squadra cedente, la squadra acquirente, il giocatore che veniva considerato, non dico alla stregua di un pacco postale, ma quasi. Adesso sappiamo molto bene quanto il ruolo dei procuratori sia determinante e quanto l'atteggiamento del giocatore, la decisione del giocatore sia fondamentale. Snyder, Docet. Sì, e certo. Quindi credo che questa sia la vera sfida per chi si occupa di informazione relativa al calciomercato. Sì. C'è anche un altro aspetto, che rispetto agli anni del boom, agli anni d'oro, mi riferisco agli anni 80 e 90 del nostro calcio, la crisi economica morde terribilmente tutte le società. Ieri la Deloitte ha pubblicato, e ho visto che anche Radio 24 doverosamente e puntualmente le ha dato notizia, la classifica dei club e del loro fatturato. Ci sono sì 5 squadre italiane, ma è abissale la distanza che separa la Juventus, l'Inter, il Napoli, la Roma, il Milan, dal Real Madrid, dal Barcellona, dal Manchester United. Ma sì, perché è un modello di calcio quello italiano che è tutto da rifare. No, questo è evidente, però ci sono anche ragioni diverse, no? Quando eri direttore di Tutto Sport e sei inventato questa formula, potevi in maniera credibile anche insomma far circolare nomi di giocatori che in Italia potevano arrivare e poi sono arrivati, che sono molto diversi da quelli di oggi. Oggi il mercato è qualcosa di misterioso, è qualcosa per addetti ai lavori, per cultori della materia, per gente che passa la notte su YouTube a capire chi sono questi giocatori, magari molto giovani, che andiamo a prendere. Insomma, non sono più i tempi di Zidane, non sono più i tempi di tutti quei nomi che leggevamo su Tutto Sport, che poi arrivavano, no? Oppure per esempio di Bobo Vieri, venduto all'Atletico Madrid per 32 miliardi di lire, all'insaputa dello stesso avvocato Gianni Agnelli, visto che ieri abbiamo ricordato il decennale della sua scomparsa. Quella fu memorabile. Non so se io abbia il tempo per raccontare un piccolissimo aneddoto. Io rammento che il nostro inviato sul calcio internazionale, Massimo Franchi, per una combinazione fortunata, la sera in cui Vieri passò dalla Juventus all'Atletico Madrid, incrociò il figlio di Jesus Gili Gili, il presidente dell'Atletico, in un noto locale di Monte Carlo. Mi telefonò alle 10 e mi disse: guarda che l'Atletico ha preso Vieri. E ovviamente, siccome Massimo Franchi è un bravissimo collega, e noi ovviamente ci regolammo sulla base delle sue informazioni e la sparammo in prima pagina 8 colonne. Il mattino alle 8 chiamò Luciano Moggi e disse: ma quando è che la finite di sparare queste facezie, perché Vieri non si muoverà dalla Juventus? Alle 18.05 arrivò il comunicato ANSA, la Juventus Football Club comunica di aver ceduto il giocatore Christian Vieri all'Atletico Madrid. Diciamo che erano altri tempi, erano altri modi di comunicare, di avere le notizie, e soprattutto, ripeto, non c'era internet. Tutti convocati Magazine. Via Iacobelli, direttore di calciomercato.com. Io insomma lunedì ero convinto, lunedì mattina ero convinto sarebbe stata la settimana del ritorno di Kakà al Milan, funzionale oppure no, però ero abbastanza convinto. Poi è arrivato il solito fiscalista che ha alzato il ditino e ha detto: ragazzi, non si può fare. È saltata la trattativa un'ora fa, perché in effetti Kakà ha fatto tutti gli sforzi possibili e immaginari e questi problemi della fiscalità hanno indotto il Real Madrid a stoppare la trattativa. Quando un paese paga il 24% e un altro ne paga il 47-48%, bisognerebbe chiedersi se è normale così, ma evidentemente è normale così e quindi non c'è più niente da fare. Dunque, direttore, tu ti aspettavi che intervenisse il fiscalista oppure anche tu pensavi ad un ritorno di Kakà al Milan? Beh, intanto sarebbe curioso sapere se questo fiscalista sia lo stesso o il cugino del fiscalista che il 31 agosto venne citato da Galliani, sempre con la stessa motivazione, perché vedi, quando parlavamo di internet, ciò che si afferma, ciò che si dice è eterno su internet, e allora basta cliccare su Google e trovi le stesse dichiarazioni in data 31 agosto. Certo. Ora, certo. Intanto il principio fondamentale è che le tasse si pagano sempre, comunque, dovunque, e voglio dire, ogni paese ha la propria legislazione. Peraltro, quella che gli spagnoli chiamarono a suo tempo la legge Beckham non è più in vigore, quindi voglio dire, anche sotto questo aspetto, secondo me, bisogna dire, a mio avviso, le cose come stanno. Ed è molto semplice. Il Milan, purtroppo, avendo trascorso anni, purtroppo Milan e soprattutto per i tifosi rossoneri, durante i quali ha pagato ingaggi multimilionari, spropositati, astronomici, esorbitanti, usiamo l'aggettivo che meglio preferiamo, ha dovuto radere al suolo l'organico nell'estate 2012, perché sennò non ce la faceva andare avanti con i conti. Radendo al suolo l'organico, adesso Galliani, e non è certamente colpa sua, perché se dipendesse da lui li prenderebbe tutti i migliori giocatori in circolazione, ma agisce su input di Berlusconi, deve fare di necessità virtù. Il Real Madrid ha speso 63 milioni di euro nel 2009, i soci del consiglio direttivo della Casablanca hanno chiesto a Florentino Perez: ci spieghi perché noi dovremmo dare in prestito per 2 anni e mezzo Kakà al Milan rimettendoci una montagna di soldi? Certo. E quindi il fiscalista c'entra sicuramente, ma la realtà è che c'era un tempo in cui il Milan faceva incettare i campioni, adesso purtroppo per le condizioni oggettive del proprio bilancio deve fare di necessità virtù, deve aguzzare la fantasia, come dice spesso Galliani, al quale in passato sono riusciti dei grandi colpi. Ne era riuscito uno bellissimo a gennaio, quando aveva preso Tevez e venduto Pato per 30 milioni di euro al Paris Saint Germain, ma Berlusconi stoppò tutto. Poi lì non fu il fiscalista ad alzare il dito, ma fu qualcun altro. No, e quindi Kakà a queste condizioni, peraltro, è inusuale nella storia del calcio, credo, della Via Lattea, che un giocatore che guadagna 10 milioni di euro sia disposto a guadagnarne 6, pur di tornare nella squadra che gli sta tanto a cuore. Ma se gli fosse stato tanto a cuore, probabilmente nel 2009 sarebbe rimasto al Milan, risparmiandoci anche la scena dell'Abbaino il 31 gennaio, quando non andò al City. Poi sei mesi dopo però passò al Real Madrid, ma questo ormai quelle storie, io sono convinto che il Milan voleva vendere Kakà, Kakà ha scelto a quel punto la sua destinazione, perché alla fine ne aveva anche diritto. Ti faccio una domanda che ho fatto anche ieri a Carlo Laudisa: ma il Milan che cosa cerca, che cosa vuole di preciso in mezzo a tutti questi nomi, da Kakà, Drogba, Balotelli, tutte cose, sono tutte chimere, ma cosa vorrebbe di preciso? Un giaguaro da esibire al guinzaglio o un giocatore funzionale alla squadra che Allegri sta faticosamente tentando di costruire? Filosofeggiando potremmo dire che il Milan sta cercando se stesso, sta cercando un'identità che ha perduto l'estate scorsa, quando appunto l'organico venne smantellato per i motivi sopra esposti. Sta cercando giocatori che gli consentano di coltivare un sogno, arrivare terzo e tornare in Champions League, perché tornare in Champions League per il Milan è una questione esiziale. Nella deprecabile ipotesi in cui non c'entrasse questo obiettivo, come per l'Inter, dovrebbe rivedere tutti i propri piani. Ti basti pensare che il Napoli ha scalato, a proposito di classifiche di fatturato, diverse posizioni ed ora è quindicesimo grazie ai 30 milioni che ha incassato nella passata stagione comportandosi benissimo. In Champions League. Quindi la Champions League, la partecipazione alla fase gironi e poi eventualmente la qualificazione e tutti successivi diventa una questione di sopravvivenza. Il Milan sta cercando prima Kakà, poi Balotelli, poi Drogba, peraltro Drogba guadagna 1 milione di euro netti al mese dallo Shanghai Shenhua, e quindi era un contratto fino al 31 dicembre 2014, quindi delle due l'una, o è folgorato sulla via di Milanello e accetta di ridursi lo stipendio con proporzioni apocalittiche verso conto in banca, oppure la vedo dura. Però io continuo a pensare che invece il Milan dovrebbe prendere un grande centrocampista, ha preso Zaccardo in difesa e già questo è un passo importante, girando Mesba al Parma, ma adesso le notizie di queste ore ci dicono delle trattative in corso con lo Spartak Mosca per Antonini e con lo Zenit per Abate. Tutto questo perché? Per racimolare il denaro necessario per sperare l'ultimo assalto al castellino di Balotelli. Ma i signori del City, che non sono mica nati ieri, affermano perché noi dovremmo svendere Balotelli, la cui quotazione base è di 25 milioni di euro, e non vogliamo darlo in prestito. Queste sono le oggettive difficoltà del mercato attuale del Milan. Stesso discorso, pari pari a quello che hai fatto prima per Kakà. Direttore, per chiudere la nostra chiacchierata, ti faccio sentire una voce che introduce un altro argomento. Mi era stato affidato, non mi è stato consentito e non sono più disponibile ad andare avanti. Ma non voglio fare polemiche con le persone, ma se vuoi capire possiamo parlare di questo. 900 pagine, una ricerca, un programma per rinnovare il calcio italiano. L'ho presentato nel dicembre del 2011 e per un anno è rimasta lettera morta. E ho capito che era inutile stare ad assistere a riunioni che nulla avevano a che fare con il mio incarico di presidente del settore tecnico. Se vuoi un esempio, alle riunioni di presentazione del progetto abbiamo fatto 5 ore di anticamera e abbiamo avuto poco più di un quarto d'ora per presentare tutto il progetto a cui hanno lavorato più di 50 persone per più di un anno. Sì, aveva anche stanziato 10 milioni di euro per questo progetto. Io sono grato ad Abete per quello che ha fatto, ma purtroppo ad oggi io non ho ricevuto i fondi per procedere e alla fine tutto è rimasto sulla carta. Ecco perché a malincuore dico addio. Questo era Roberto Baggio che dopo il disastroso mondiale, l'ultimo disastroso mondiale, venne chiamato nella schiera dei grandi nomi insieme ad Arrigo Sacchi eccetera per rifare e rifondare il calcio italiano. Baggio dice: scusatemi, non ho più tempo da perdere. Direttore Iacobelli. Ha fatto benissimo ad andarsene sbattendo la porta, perché questo è un sistema di dinosauri che non cambia mai, che è fondato sull'immobilismo. Questo calcisticamente parlando, e purtroppo non solo calcisticamente parlando, mi riferisco all'organizzazione del più importante sport italiano, è un paese per vecchi. Dai un'occhiata a che cosa è accaduto nel lasso di tempo tra il 20 dicembre e il 14 gennaio scorso. Sono stati confermati gli stessi uomini che guidano la Lega Nazionale Dilettanti, la Lega Pro, la Federazione Italiana Gioco Calcio. Non parliamo della Lega di Serie A, perché è una cosa che sta facendo ancora ridere i polli, tutto quanto è accaduto, le tre sessioni andate a vuoto, Beretta che dimissionario dal marzo 2011 dice non mi candido più e poi viene rieletto per altri 6 mesi con il trionfo dell'asse Lotito Galliani a spese di Juventus, Inter, Fiorentina. Questo è il calcio italiano e Baggio ha fatto benissimo, perché si era stancato di essere trattato da soprammobile. Certo. Il calcio italiano non ha capito che questi grandi campioni del passato possono dare un contributo formidabile, ma devono essere messi in condizione di agire. Vogliamo parlare di quanto accade nella Bundesliga? Perché Guardiola ha scelto il Bayern? Ma perché ha scelto un campionato fra i più organizzati del mondo, un campionato che scoppia di salute, che l'altro ieri ha tagliato il traguardo dei 2 miliardi di fatturato, 2 miliardi di euro di fatturato all'anno, che risparmia la posizione in classifica dell'Italia, che ha stadi bellissimi, che ha organizzazioni efficienti, che ha vivai che funzionano. Questa è la differenza tra il nostro calcio e quello per esempio tedesco o per parlare con l'inglese. Chiami Roberto Baggio e gli affidi un progetto che è proprio quello di valorizzazione dei settori giovanili, ci lavora per un anno, come lui stesso ha detto, quindi non penso che se lo sia inventato, produce nel dicembre del 2011, quindi siamo a un anno e un mese dopo questo progetto, e gli fanno fare 5 ore di antecamera, lo esaminano in 5 minuti e poi non si è visto, si è visto. Ma che modo di fare è? Dopodiché tutte le dichiarazioni di Abete, ho letto anche la lettera aperta di Albertini e bla bla bla, ma parliamo di cose concrete. Baggio non ha potuto lavorare e ha fatto bene ad andarsene. Baggio era stato preso la sua faccia, era stato presa la sua credibilità, era stato preso il suo nome, ma certo era stato presa la sua... è stato preso tutto questo, la sua immagine, per far vedere agli italiani in maniera fasulla: vedete, ci stiamo rinnovando, vedete, richiamiamo Baggio, richiamiamo Arrigo Sacchi, vedrete qualcosa di buono verrà fuori. Poi abbiamo visto com'è finita, questa come mille altre storie. Grazie direttore. È stato un piacere, grazie a voi, buon pomeriggio da calciomercato.com. Grazie a Savia Iacobelli, direttore di calciomercato.com. Dunque Baggio che se ne va sbattendo la porta, giustamente sono d'accordo con Iacobelli, e noi ci teniamo i nostri, a cominciare da Zamparini, che in settimana si è esibito per la platea della Zanzara a tutto tondo, ne ha avuto un po' per tutti, a cominciare dall'interesse del Milan per Kakà. No, ma non porta neanche vittorie. Se il Real Madrid lo scarta è perché Kakà non è più il Kakà di 10 anni fa. Il Kakà di adesso è un Kakà che deve tornare in Brasile, buona, pieno di soldi, non c'ha più gli stimoli, non c'ha niente. Dunque è un soprammobile, non c'ha più gli stimoli, non c'ha niente, ma il Palermo, però il Palermo di Zamparini non è che stia facendo una grande stagione, eppure lui ottimista fino in fondo. Mamma mia, mi viene un dolore terribile, poi ritorno in Serie A. Sono retrocesso due volte il Palermo non retrocede in maniera assoluta. Sicuramente perché è il dolore dei palermitani, però se ci sono gli alti bassi, ma alle volte quando sei lì in basso è per risalire. Però il Palermo, se lo tenga scritto forte, non retrocederà, anzi, arriverà salvo 5-6 domeniche prima del fine campionato. Sì, lo scrivo. Lo scriva. Ma per il gran finale è dedicato alla nuova di zecca Lega Calcio, Zamparini. Allora, la fotografia dell'Italia è la Lega. In Italia c'è Monti, in Lega c'è Lotito. Il presidente sono due faccendieri tutti e due, uno nel calcio e l'altro dall'altra parte. È la beretta perché è l'inefficienza, cioè un immobilismo, no? La causa è dei 20 presidenti, di cui uno sono io, non ci vado più, però in assemblea mando il mio amministratore delegato, è perché la Lega è diventata un consesso di deficienti, 20 presidenti deficienti che poi si fanno rappresentare dai loro dirigenti. Anch'io adesso ormai mi faccio rappresentare. Beh, meraviglioso direi. Tutti convocati Magazine. Quindi non troppo, molto time out. Quanti hanno giocato? 20, 6 anni, 17 anni. Sai quanti è un time out? Io ho ascoltato in vita mia. 3. Ma ascoltavo una figa che mi stava parlando. Gli ho detto a Bianchini se non è vero. Si incazzò come una iena di supporto, però mi ha detto: ma che figa c'era? E mi dice: hai ragione. Gianmarco Pozzecco, questo è il tema, era Gianmarco Pozzecco e i time out. Io saluto Monsieur Luca Vitali. Ciao Luca. Ciao a tutti. Tu li ascolti i time out o parli con le fighe? No, li ascolto. Però sarei stato curioso di vedere la faccia del coach quando il boss guardava la figa anziché ascoltare il time out, che quello è. Bisogna chiederla a Bianchini che non l'ha prese benissimo, però sta nel personaggio, figurati adesso che fa l'allenatore, che cosa può raccontare ai suoi durante i time out. Come stai? Bene, grazie. Quando rientri? Ma stiamo provando adesso per vedere come reagisce il dito. Una frattura ci vogliono 30 giorni, siamo a 15, quindi siamo un po' indietro. Adesso valutiamo i rischi per domenica. Sì, ti stai ricostruendo a Cremona, come ti trovi da quelle parti? Bene, è una società a gestione familiare dove sono tutte comunque brave persone, si lavora bene, c'è un'ottima armonia, quindi insomma dopo le cose vengono più semplici, ecco. Dopo le cose vengono più semplici, Luca Vitali, per una squadra così è un po' leader e un po' lusso, o no? Non lo so. Dovrebbe essere così. Ci proveremo. Ci proveremo, esatto. L'anno scorso non so se poteva essere così. Ascolta Luca, perché Milano, in cui tu hai giocato e che insomma investi molto su di te, in una Milano sbagliata, perché Milano fa il volo del tacchino? Sbatte le ali e non si alza mai, secondo te? Ma forse perché deve ancora ricercare la quella che è un'organizzazione, una mentalità vincente che ha poi trovato Siena e ha reso Siena speciale e invincibile in questi anni, che penso sia stato poi il segreto del Montepaschi. Questo, probabilmente questo segreto Milano non l'ha ancora trovato e auguro di trovarlo al più presto, insomma, perché è una realtà che è destinata a vincere. Quando non si sa, perché ormai sono molti anni che va avanti questo progetto e non so se c'è un limite alla pazienza, ma dovrebbe in qualche modo esistere. È un campionato comunque strano questo, Luca, è un campionato in cui Varese e Sassari giocano la pallacanestro migliore, non a caso sono prima e seconda in classifica, è un campionato in cui Roma, che nemmeno doveva presentarsi, sta facendo una grande stagione, appunto un campionato in cui Siena ha ovviamente ricostruito e risalito la classifica e fatto grandi cose in Eurolega e rimane per me l'indiziata numero uno per rivincere lo scudetto per la centomillesima volta. Ma sicuro, perché sono comunque i campioni in carica. Hanno ricostruito, ma mantenendo quello che è quell'organizzazione che li ha resi vincenti, insomma, cambiando alcuni addendi come Luca Banchi, che era vice, è diventato capo allenatore, però insomma era parte di questo progetto vincente che è stato in questi anni. Quindi penso che sia doveroso ritenere Siena una delle candidate, se non la favorita, per vincere il titolo. Per quanto riguarda le altre, è stato descritto da tutti come il campionato più scarso rispetto agli anni passati, ma alla fine è quello più divertente. Sì, certo. Perché c'è... Perché il divertimento sta nell'incertezza, non esatto. sta... Nel... No. Sì, è così. E poi, per quanto possa essere stato definito più scarso, abbiamo Siena, che non è prima in classifica, ma che è 4-0 nelle top 16 di Eurolega. Certo. È come non uscire, per dirla alla Pozzecco, con quattro modelle, ma uscire con quattro ragazze normali che magari ti fanno divertire di più. Mettiamola così per essere eleganti. Voglio chiederti delle altre cose in ordine sparso tra quelle che sono successe in settimana. L'altro giorno ho chiamato una bellissima donna che certamente conoscerai, si chiama Margherita Granbassi, oltre che una splendida campionessa, perché aveva scritto un post su Facebook dicendo: Armstrong deve vergognarsi, eccetera eccetera, deve essere dimenticato. Io non sono d'accordo sul fatto che debba essere dimenticato, perché ci ha fatto troppo male, perché ha fatto troppo male a tutti quelli che hanno, me compreso, che avevano creduto in lui, che hanno fatto il tifo per lui, come per tutti i fenomeni dello sport che mi emozionano, lui, Michael Jordan, possiamo fare un elenco ristretto. Io credo che debba essere ricordato sempre e da tutti. Sempre da tutti questa delusione, tu come la pensi? Ma io la penso che nel momento in cui l'abbiamo vissuta, abbiamo vissuto un'emozione grandissima, no? Di un atleta invincibile, diciamo. E dopo qualche anno abbiamo scoperto che questa emozione, abbiamo scoperto un'emozione diversa, cioè quindi una delusione. Quindi in ogni caso penso che questo atleta qui ci lascerà comunque qualcosa e non potrà essere dimenticato, sia... per l'esempio, in questo caso negativo, che ha dato e per le emozioni che ha provocato in tanti di noi. Sono d'accordo con te perfettamente, caro Luca. Luca, è sempre un piacere parlare con te. A prestissimo. A presto. Ciao. Bocca al lupo. Ciao. Andiamo con Pozzecco un giorno. Andiamo a trovare Pozzecco, esatto, insieme, esatto. A Capo d'Orlando. Magari ci divertiamo. Esatto, esatto. Ciao Luca. Ciao. Sì, che ti aspettano. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Cante tiki bom. Tiki tiki bom. Questo era dedicato, come sapete, per i nostri più fedeli ascoltatori, alle Cheeky Girls, Errani e Vinci, perché, ripeto quanto detto ieri per chi non c'era, si chiamano Cheeky reciprocamente, mentre giocano, si incoraggiano, mentre battono le avversarie. Ehi Cheeky, ehi Cheeky, e questo è il loro reciproco soprannome che usano. E forse questo soprannome

chiudiamo così il magazine di tutti i convocati. Ripartiamo anzi da qui, perché tra una settimana sarà Sei Nazioni. Allunghiamo il pallone, parliamo di rugby e di questo Sei Nazioni che ci attende. Siamo rimasti, come avete sentito in questo montaggio, alla meta simbolo del nostro Sei Nazioni precedente. Abbiamo battuto la Scozia, vogliamo ripartire da qua. Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno. È così, vogliamo ripartire da qua, e possiamo anche dire un'altra cosa, visto che il primo incontro sarà Italia-Francia domenica 3 febbraio all'Olimpico, possiamo anche dire che sarebbe bellissimo ripartire da Italia-Francia, visto che l'ultimo incontro disputato in casa nel 2011 contro i francesi portò a una vittoria, che per una volta possiamo adoperare questo aggettivo senza tema di smentita, veramente clamorosa, una vittoria che fece il giro del mondo. Sarebbe molto bello, ma anche molto difficile ripetersi. Sì, Giacomo, presentaci questo Sei Nazioni, ma partiamo dalla presentazione della nazionale italiana, che contiene tante novità. È una nazionale che prova a guardare al futuro, che lascia a casa alcuni mostri sacri del nostro rugby, alcuni personaggi che hanno costruito la storia recente del nostro rugby. Eh sì, un po' per infortuni, vedi Bortolani, un po' per naturalmente per l'età che avanza, ci sono sicuramente dei giocatori che sembrano sul punto di lasciare, che non sono convocati, mentre i giovani naturalmente arrivano, e questo è un bene. Ci sono ragazzi del 1990 come Venditti, e abbiamo sentito quanto è stata importante la meta che ha segnato contro la Scozia l'anno scorso. C'è un ragazzo ancora più giovane di lui che è Iannone, una delle speranze per i tre quarti azzurri. C'è un progetto addirittura che riguarda il futuro numero 10 azzurro, è un progetto ambizioso, non vorrei definirlo disperato, perché bisogna sperare come, ma certo, se noi pensiamo al ruolo di mediano d'apertura, e se togliamo quello che Georges Cost definì un dono del cielo, cioè Diego Dominguez, possiamo dire che addirittura non sono 10 anni che siamo senza mediano d'apertura, ma per quanto riguarda un mediano italiano affidabile a tutti gli effetti, gli anni si moltiplicano, sì, sì, si raddoppiano, sono anche 20. Sì. Diciamo che di questi 31 azzurri aumenta parecchio la percentuale e la quota di quelli fatti veramente in casa, a tutti gli effetti italiani, nati in Italia e nati anche rugbisticamente nel nostro paese. D'altronde questa è una realtà a cui ci dovremo abituare, non avremo più, quasi più, io credo, i Castrogiovanni, i Parisse, ragazzi arrivati molto giovani dall'Argentina, ma arrivati comunque già perché si sapeva che erano dei potenziali campioni. L'Argentina è entrata adesso in questo campionato a 4 con Nuova Zelanda, Sudafrica e Australia. L'Argentina a questo punto passa più decisamente al professionismo, è in grado di tenersi i suoi giocatori migliori. Noi ne dovremo fare a meno, e io direi che tutto sommato, Carlo, è un bene. Potremo, sì, certo, pagare un dazio, ma a questo punto l'Italia sarà una squadra veramente dura a tutti gli effetti. I giocatori, i ragazzi che si avvicinano al rugby sono sempre di più. Se a livello tecnico, a livello di reclutamento, ci sarà una federazione in grado di sostenere questo movimento, dovremo riuscire anche abbastanza a breve a creare dei giocatori all'altezza del Sei Nazioni, all'altezza del movimento internazionale. Uno di questi, Francesco Minto, è stato la grande sorpresa dei test match d'autunno. Grande sorpresa perché, per dire la verità, gioca in seconda linea con una statura 1,92 m che sembrerebbe impedirglielo. Troppo piccolo per essere una seconda linea. Secondo Nick Mallet, ad esempio, sicuramente sarebbe stato così. C'è stata una lunga polemica per Antonio Pavanello, seconda linea capitano del Benetton, a cui lui aveva detto sempre: mancano un paio di centimetri per giocare a livello internazionale. Minto è più piccolo ancora, però ha dato un apporto notevolissimo alla mischia azzurra, e non mi sorprenderei di vederlo partire titolare per questa nazionale, che comunque, ricordiamolo, tra le sei del Sei Nazioni sicuramente è la meno accreditata, certo. Con la Scozia. La Scozia che però avrà il vantaggio di giocare in casa lo scontro diretto. Certo. Senti, sentiamo cosa ha detto invece uno dei veterani del gruppo azzurro, cioè Andrea Masi, su questo esordio contro la Francia. La squadra penso che stia abbastanza bene, stiamo lavorando bene, con serenità e niente, incontriamo una squadra che è in forma in questo momento, siamo consapevoli di questo, però insomma non siamo spaventati e sappiamo che sarà una partita durissima, però insomma vogliamo continuare sulle basi dei test match di novembre, per cui cercheremo di essere ambiziosi come nelle ultime partite, ma non lo so chi giocherà estremo. Per me, come ho già detto tante volte, l'importante è trovare spazio e continuare a divertirmi. Questo era Masi ed è una squadra che sta prendendo sempre più una forma francese, che sta forse assomigliando sempre di più a quella di Berbizier, che rimane l'ultima nazionale secondo me da ricordare, perché l'era Mallet in fondo, Giacomo, essendo un po' critici, non ci ha regalato più di tanto. La Francia che troveremo in campo invece come sarà? In che momento è? In che anno è la Francia? La Francia è stata sicuramente la migliore delle squadre europee a novembre, quando si è trattato di affrontare le grandi dell'emisfero sud che sono arrivate in Europa, anche se non possiamo naturalmente dimenticare che l'Inghilterra, che aveva avuto una serie di partite abbastanza deludenti, poi ha concluso con una straordinaria vittoria per 38-21 sugli All Blacks, che arrivavano da 20 successi consecutivi. E io credo che la Francia sia appunto con l'Inghilterra la favorita di questo Sei Nazioni, è una squadra che comunque può contare anche sempre su un fattore rinnovamento importante, su giocatori di grandissimo livello e di grandissima qualità. Ricordo che tra l'altro sulle 8 squadre che sono arrivate ai quarti di finale dell'Heineken Cup, che è un po' la Champions League dell'Ovale, 3 sono francesi, diciamo che non possiamo aspettarci certo una formazione al di sotto di un livello, certo, decisamente alto. In più, lo abbiamo già detto, 2 anni fa loro a Roma, allora eravamo al Flaminio, hanno perso, e grande protagonista della partita fu proprio Andrea Masi, che abbiamo sentito poco fa, quindi saranno sicuramente concentrati, desiderosi di fare una grande partita, di prendersi anche una rivincita. Detto questo, anche l'Italia a novembre non ha certo sfigurato, poteva, è arrivata veramente a un passo dal, quantomeno dal pareggio, dal risultato positivo, sì, con ma l'Australia. È un'Italia che manda splendide sensazioni dai test match d'autunno, come dico, un'Italia più logica con un tecnico francese rispetto a quanto non fosse, come d'abitudine, con tecnici che arrivano da lontano. Giacomo, avremo tanto modo e tempo di parlare di questo Sei Nazioni anche nel corso degli appuntamenti settimanali con tutti i convocati. Per il momento ti ringrazio e ti do appuntamento appunto ai commenti su questo Sei Nazioni, sperando di portare a casa qualche risultato diverso dalla vittoria sulla Scozia, che pure, dicevi tu, non sarà semplice. Grazie, Giacomo. E vi ricorderei come ultima cosa, se è possibile, che da quest'anno costantemente per tutte le partite dell'Italia, anche sul sito del Sole 24 Ore, il www.ilsole24ore.com, ci sarà la diretta testuale degli incontri. Fantastico. Un motivo di più per seguirci e per dimostrare che il gruppo Sole al rugby tiene. Che noi ci siamo. Grazie Giacomo Bagnasco, e con cui chiudiamo questo magazine del sabato, ringraziando Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo domani l'appuntamento con Dai e Vai, con il duo Gattuso-Ferentino, imperdibile, dalle 16.30 alle 19, poi dalle 22 alle 23. Ciao a tutti.